Il punto di Stefano Folli. Rispetto alle convulsioni del centrodestra, la domanda da porsi è se può esistere un PDL senza più Berlusconi, perché è vero che il personaggio è ormai fuori gioco, seppur in forme turbolente e sconcertanti, ma davvero possiamo credere che il rito delle primarie convocate in fretta e furia sia sufficiente a creare quasi per miracolo una classe dirigente e una nuova leadership dopo anni di autocrazia e di guida carismatica? A garantire cioè una piena legittimazione a ciò che finora quasi non esiste? Il segretario Alfano ci crede e si è conquistato con ammirevole tenacia il diritto di provare, ma è meglio non farsi troppe illusioni. Il vero problema politico è che l'area moderata, rimasta per 18 anni sotto l'ombrello del berlusconismo in forme dirette o indirette, oggi è sbandata e confusa. Un vuoto che oscilla tra l'astensione e Beppe Grillo, uno scollamento che si registra forse per la prima volta nella storia recente d'Italia.